thankful and family. I see men at the water's side, casting nets at the surging tide. Lasci segni tuoi e lasci tua verità, ma dentro vuoto sei senza amor, senza amor. Vai. Chi corre troppo non se ne accorge di un tesoro, crede che abbia quel che vuol. Digli che c'è un amore da trovare. E se riesci a fermarti ancora un po' e domandarti ma che importanza la corsa che per noi persa è già, persa è già. Ma sei fortunato in questa corsa, confidi con un amore sognato già. Vienilo forte con tutto il cuore, tentale amor non tornerà. Sei fortunato se all'improvviso senti un amore più profondo del mare blu. Seguilo che un amore, tale amor, non tornerà mai più. 接下来请欣赏安德烈·博切利演唱的一组意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande. Fu andarsene poi via. Questa melodia, inno della la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi rapisce il cuore. Fino al mattino tra i canti un gran mulino. lì è nato il mio destino. Amaro senza te.

che il tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi.